Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meris, benvenuti a Smart City. Una volta per sapere quanti veicoli passavano da una certa strada bisognava mettere lì qualcuno che semplicemente li contava. Insomma, avere dati sul traffico e sullo stato del traffico era molto oneroso ed era in pratica impossibile averli in tempo reale. Questa situazione ormai è stata completamente superata. Siamo pieni di dati sul traffico e adesso bisogna trasformarli in qualcosa che serva a noi tutti per muoverci in modo più intelligente. Ne parliamo con Francesco Mazzone, che è direttore infomobilità di ACI Global. Buonasera Mazzone. Buonasera. Intanto da dove vengono tutti questi dati? Guardi, rispetto a soltanto qualche anno fa, ormai i dati vengono un po' dappertutto. Direi che gli stessi utenti ormai oggi, gli stessi utenti delle strade, generano informazioni di viabilità, laddove invece nel passato noi eravamo abituati a un'idea di fornitori di dati soltanto da enti certificati, da gestori di strada o da organi di polizia. Oggi questi dati sono realmente disponibili in grandi quantità perché un po' tutti gli smartphone o quasi tutti vengono tracciati e quindi si sa ogni utente che tipo di velocità ha sulla strada. Poi ci sono dei soggetti che elaborano questi punti traccianti e sono in grado di offrire, di vendere informazioni ad esempio sulle velocità su tutte le strade, sulle strade più importanti. Ecco, e poi ci sono in giro un sacco di automobili ormai con queste specie di scatole nere che servono all'assicurazione, che producono dati. Esatto, questo è stato il vero driver poi di un certo mercato di dati di infomobilità, perché con l'installazione di queste black box o di unità di bordo nate finalità prevalentemente antitruffa, antifrode, effettivamente si è resi conto di avere disponibili una mole importante di dati di tutti questi utenti che accettavano di farsi installare. E che ormai è ulteriormente cresciuta appunto con gli smartphone, i dati provenienti dalle flotte commerciali e quant'altro. E oggi appunto la sfida è trasformare questi dati in informazioni, le due cose non sono proprio equivalenti, utili per il viaggiatore. E per quanto riguarda i guidatori, e qui non a caso parliamo con voi di ACI, c'è una difficoltà in più: non distrarre la persona dalla guida. Sì, esatto. La maggiore quantità di dati disponibili rende, diciamo, moltiplica le occasioni di essere fruitori di queste informazioni. Il problema è che tutte queste opportunità genera anche una certa distrazione e quindi bisogna assolutamente fare in modo che questi servizi, il saldo tra l'aiuto che danno in termini di supporto informativo, che di per sé è un fattore che che migliora la sicurezza stradale, poi non venga invece peggiorato dalla invece un aggravio di carico di attenzione verso la strada, insomma, verso altre cose. Ecco, quali sono quindi le possibili soluzioni su cui anche voi state lavorando? Innanzitutto rendersi fruire di informazioni le più affidabili possibile, cioè quelle che riescono a combinare il dato certificato cosiddetto con il dato generato dagli utenti o tracciato dai nostri smartphone. E l'altra è sicuramente quella di utilizzare una modalità di interazione con il conducente che sia un pochino più smart, ad esempio utilizzando l'audio in prevalenza. Ecco, da questo punto di vista proprio la radio, insomma, è una bella tradizione, no? Assolutamente, calcoli che il 60% delle persone che ascolta la radio preferita ascoltano mentre guidano, e addirittura il 70% segue le informazioni sul traffico proprio via radio, quindi la radio è sempre stato un canale fondamentale, ma lo è ancora oggi, specialmente in relazione alle innovazioni che si stanno facendo anche La radio digitale, no? Che evidentemente potrebbe consentire uno scarto nel modo di distribuire queste informazioni. Ci spiega? Guardi, la radio digitale, oltre ai vantaggi in termini di qualità, proprio da un punto di vista dei contenuti, banda e tutto, consente di sovrapporre anche diversi contenuti, di localizzarli, con il vantaggio di non avere necessità di una connettività. Quindi, diciamo, è sicuramente questo il futuro anche per l'infomobilità. Ecco, ma mi faccia capire, oggi noi già riceviamo informazioni sul traffico dalla radio, che cosa si potrebbe fare in più? È possibile immaginare per esempio di far arrivare a un guidatore tramite questo canale della radio digitale delle informazioni personalizzate, cioè dimmi quali sono i problemi sul traffico, diciamo, rispetto alla direzione nella quale sto andando. Guarda, invece di raccontarmi tutti i problemi d'Italia. Noi ci stiamo organizzando proprio per erogare servizi personalizzati intorno alla posizione del conducente, proprio dammi il traffico intorno a me in qualche modo. E prima di arrivare a questo livello, che può sembrare anche abbastanza spinto, in ogni caso fornire al conducente un set di informazioni più locale anche perché questo corrisponde alle distanze medie di spostamenti che oggi la maggior parte degli utilizzatori delle strade percorre. Grazie Francesco Mazzone. Grazie a voi, a presto. Abbiamo parlato di Smart Mobility non a caso perché proprio oggi debutta il nuovo servizio Strade in diretta di Radio 24 in collaborazione con ACI Consult, servizio che è affiancato da una sezione che potete trovare sul sito della radio che riporta le informazioni appunto in tempo reale sul traffico. Dategli un'occhiata, vi saluto e ci diamo appuntamento a domani.